Sono le 19. GR 24, il sole 24 ore. Terrorismo a Londra, 7 le vittime, 36 feriti in ospedale, 21 sono gravi. Per fermare gli assassini gli agenti hanno sparato 50 colpi. Perquisita la casa di uno dei killer a Barking, nuovo raid in corso a Istam, 12 arresti eseguiti dalle forze di sicurezza. Torino, il giorno dopo oltre 1500 i feriti, dopo il panico in piazza San Carlo, ancora 3 persone in codice rosso, tra i quali un bambino. Moto mondiale al Mugello, la rossa che vince la Ducati di Dovizioso, Rossi lotta ma si ferma al quarto posto. Ancora buonasera da Gigi Donelli al microfono, da Pietro Lacorte in regia, dalla redazione di Radio 24, naturalmente in primo piano gli eventi britannici, londinesi. Vi anticipo già che alla fine di questo GR, intorno alle 19:14 minuti, aggiornamenti per chi è in viaggio, dunque la viabilità che è importante in questo rientro di ponte, e poi uno speciale fino alle 20 dedicato appunto a fare il punto su quanto accaduto ieri sera a Londra. Soltanto adesso cominciamo a chiarire alcuni degli aspetti. Bene, quello che sentite in sottofondo è la voce di Mark Rowley, l'ufficiale incaricato di comunicare gli sviluppi. Conferma, 21 dei feriti, dice, sono in condizioni critiche. Il bilancio del duplice attacco al cuore di Londra diventa dunque sempre più grave. Si allungano i tempi per identificare le vittime perché, dice, alcune sono straniere. È il capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley, ad aggiornare il drammatico elenco. 7 morti, uno dei quali canadese, 36 feriti, 2 dei quali francesi, 21 in condizioni critiche, tra i quali un poliziotto. Il sottosegretario agli esteri, Enzo Amendola, in Italia, torna a ribadire che al momento non ci sono italiani tra le vittime dell'attentato. Continua intanto senza sosta il lavoro di intelligence. La polizia ha compiuto un raid a Istam dopo quello di Barking, concluso con 12 arresti. È qui che gli agenti hanno trovato l'appartamento di uno dei terroristi, un uomo dei tratti medio orientali, sposato con dei figli, ed è lui che, secondo le testimonianze di un vicino, uno dei killer, è stato espulso dalla moschea locale. Lui non voleva andarsene, ha detto, fu mandato via con la forza. Iniziano a delinearsi anche i particolari di quegli 8 minuti di terrore trascorsi dall'inizio dell'assalto a London Bridge all'uccisione dei 3 terroristi. Per bloccarli, ha spiegato Rowley, sono stati sparati 50 colpi di arma da fuoco da 8 agenti, uno dei quali è finito contro un passante che però non è in pericolo di vita. La polizia ora non esclude che i 3 terroristi abbiano avuto complici esterni al comando, tuttora da individuare. We cannot and must not pretend. Theresa May, il primo ministro, dopo il discorso duro, fermo, pronunciato stamane, la frase che sta di fatto titolando molti siti internazionali, quando troppo è troppo, ha detto le cose devono cambiare. Theresa May nel pomeriggio è andata a trovare i feriti in ospedale, mentre la regina ha pregato per le vittime dell'attacco. A Downing Street le bandiere sono state poste a mezz'asta, come già accaduto per l'attacco di Manchester, mentre al Borough Market, dove si è concluso l'attacco, la strada di fatto della movida macchiata di sangue è stato tutto ripulito. Ai duri attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il sindaco di Londra, accusato di aver sottovalutato il pericolo, ha risposto seccamente il portavoce del primo cittadino. Il sindaco, ha detto, è occupato a lavorare con la polizia, con i servizi d'emergenza, con il governo, e quindi ha concluso, a cose più importanti da fare che rispondere ai tweet male informati di Donald Trump. Gli attentati del 7 luglio 2015 a Londra aprono una stagione drammatica. Allora era Al-Qaeda il grande nemico che piombava appunto sulla città. Vi ricordate la metropolitana, 56 morti in quel caso, circa 700 feriti. Allora facciamo un punto e cerchiamo di ricostruire, perché oggi il Regno Unito è nei fatti uno dei grandi bersagli del terrorismo internazionale. 22 maggio 2017, la strage di Manchester. Nel corso del concerto di Ariana Grande, una pop star amata dai ragazzini, si odono diverse esplosioni. Il concerto si tiene alla Manchester Arena. I morti saranno 22, i feriti almeno una sessantina, molti dei quali bambini, ancora oggi ricoverati in ospedale. L'attentato a Manchester si rivelerà presto il più grave in Gran Bretagna dal 7 luglio 2005, l'anno in cui un manipolo di attentatori si fa esplodere in metropolitana Londra e su un autobus, uccidendo 52 persone e causando centinaia di feriti. La strage del Manchester Arena arriva a 2 mesi dall'attentato a Westminster e il 22 marzo 2017 la dinamica è elementare. Un'auto lanciata a folle velocità investe una dozzina di passanti sul ponte a pochi passi dalla torre dell'orologio che svetta sopra il Parlamento britannico. L'attentatore, sceso dal furgone armato di coltello, si avventa poi contro gli agenti che presidiano l'esterno della Camera dei Comuni. Il bilancio sarà di 5 morti, il terrorista, un agente raggiunto da un fendente mortale e 2 civili e 40 feriti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il terrorismo dunque da una parte e la rappresentazione del terrorismo da Londra a Torino, dove ancora 3 persone sono ferite gravemente, 1500 pensate si sono risvolte in queste 20 ore ai servizi sanitari. Schiacciamenti, traumi, ferite da taglio, contusioni. Oltre 1.500 persone costrette alle cure, almeno 3, in gravi condizioni, tra cui un bambino cinese di 7 anni. E questo il bilancio della notte da dimenticare, vissuta dalle migliaia di tifosi della Juventus, accalcati davanti al maxischermo a Torino, nella centralissima piazza San Carlo. La Procura della Repubblica torinese ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto. Come ipotesi di reato è stato formulato per ora il procurato allarme. Qualunque sia stata la causa, le conseguenze sono state quelle del panico collettivo, fuga disordinata, calca, persone schiacciate. La testimonianza alla stampa della sorella del bimbo ricoverato in prognosi riservata a Regina Margherita. All'improvviso hanno iniziato tutti a correre, allora ci siamo messi a correre pure noi. E poi qualcuno è caduto, allora siamo caduti anche sopra di lui e uno è caduto sopra l'altro e tipo ci hanno sepolti di corpi. La maggioranza dei feriti lievi ha perso le scarpe nel fuggi-fuggi generale, calpestando un tappeto di vetri rotti. La paura è stata che siamo finiti tutti per terra, uno sopra l'altro. Chi si è rialzato è stato fortunato. C'erano molti ragazzi che avevano le bibite di vetro e quando siamo caduti ci siamo fatti male perché c'erano i vetri a terra. Come mai le bottiglie di birra sono state vendute liberamente nei negozi e persino dagli ambulanti, molti si chiedono, perché non risulta nessuna ordinanza del comune riguardo. Questa mattina è stato convocato d'urgenza un vertice in prefettura cui hanno partecipato i massimi gradi delle forze dell'ordine, presente anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che al momento degli incidenti si trovava allo stadio a Cardiff. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica italiana, legge elettorale, naturalmente domani continuano i lavori, martedì l'attesa alla Camera. Oggi ha parlato di legge elettorale al Festival dell'Economia di Trento il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. In realtà gli è stata fatta la domanda sulla possibile reazione dei mercati all'eventuale nuova legge elettorale. Lui ha detto: non è chiaro il sistema che in questo momento si sta proponendo, non è il mio mestiere, la mia risposta da cittadino non da analista è che non sono sicuro di sapere come possono rispondere i mercati, ma sentiamo il servizio. Alla Commissione Affari Costituzionali della Camera l'intesa PD, 5 Stelle, Forza Italia e Lega regge con il via libera al taglio dei collegi da 330 a 225 e il superamento dei capilista bloccati. E sulla legge elettorale, alla giornata conclusiva del Festival dell'Economia di Trento, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco non si sbilancia ma avverte. Neanche sono sicuro di essere in grado di capire cosa i mercati e come i mercati risponderanno a quale. Io credo che rispondano molto all'incertezza. Per Visco il debito è un freno alla crescita, la spending review va fatta dal basso. Che gli squilibri quando si accumulano poi alla fine si finisce per pagarli tutti insieme. Per cui noi non possiamo dimenticare questo elemento come uno dei fattori di debolezza cruciali. Non credo che ci siano ricette magiche. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. Dall'estero, truppe paramilitari filogovernative irachene hanno conquistato la città di Bajai, a ovest di Mosul, un nodo strategico dove ancora resistevano i jihadisti dell'ISIS, barrando una delle vie di accesso a Mosul Ovest, non ancora completamente liberato. Lo ha reso noto Abu Mahdi, uno dei capi del gruppo paramilitare Forze di Mobilitazione Popolari. Sul fronte invece del Russia Gate, è in arrivo in serata un'intervista al presidente russo Putin, intervistato tra l'altro sulla questione, ovviamente Russiagate, dice: con Michael Flynn non ci ho nemmeno davvero parlato. Così il presidente alla giornalista Megyn Kelly, che per NBC gli chiede appunto quale fosse il rapporto reale tra il presidente russo e questo di fatto personaggio chiave del Russiagate. E adesso, ieri una giornata di sport davvero pessima per l'Italia, con finale anche complicato. Oggi però un raggio di sole letterale arriva dal Mugello. Dario Ricci. Eh sì, Gigi, hai detto proprio bene, direi un raggio tricolore, perché nel moto mondiale straordinaria prova dei piloti italiani proprio nel Gran Premio di casa. In MotoGP vince Andrea Dovizioso davanti a Vignales e a Petrucci, il sorprendente Petrucci. Quarto Valentino Rossi, che come sapete ha corso debilitato per i postumi dell'infortunio nell'allenamento della scorsa settimana nel motocross. Ma i successi azzurri sulle due ruote al Mugello non si sono fermati qui, perché in Moto2 ha vinto Mattia Pasini e in Moto3 ha vinto l'altro azzurro Migno. Ma allora sentiamo proprio la gioia di Andrea Dovizioso nel dopo gara Sky Sport. Ma ce l'abbiamo fatta, cioè qualcosa di, il sogno di tutti, vincere al Mugello in qualsiasi classe, in MotoGP è ancora più difficile, tutti piangono, c'è un motivo perché tutti piangono quando vincono, tanto pure tu, dai. È talmente complicato, c'è talmente tanto stress e pressione che quando succede wow. A piangere invece ieri sera, lo sappiamo bene, non di gioia, è stata la Juventus a Cardiff per il KO, l'ennesimo nella finale di Champions contro il Real Madrid. E allora torniamo a Torino con questi cori. Questi i cori di sostegno da parte di circa 300 tifosi che hanno accolto stamattina all'aeroporto di Caselle i bianconeri, reduci appunto del 4-1 di Cardiff contro il Real Madrid. E pensa Gigi, la partita di ieri sera su Canale 5 ha fatto il record di ascolti in TV per quest'anno. Il match è stato seguito da 13 milioni e 10 mila spettatori con uno share di oltre il 54%, quasi il 55%, è stato l'evento televisivo dell'anno davanti anche alla finale del Festival di Sanremo. Per il tennis, a Roland Garros di Parigi, eliminate nel torneo femminile la spagnola Muguruza, detentrice del titolo, e Venus Williams. E chiudiamo con la pallavolo maschile, nuovo KO in World League per l'Italia, gli azzurri a Pesaro cedono per 3-1 contro il Brasile nella rivincita della finale olimpica di Rio 2016. Grazie Dario Ricci. Adesso viabilità, quindi importanti aggiornamenti per chi è in viaggio, e poi naturalmente lo speciale che vi ho anticipato, condotto da Narita D'Ambrosio e Cristina Carpilelli, con i nostri ospiti, collegamenti, insomma cerchiamo di mettere a fuoco a nemmeno 24 ore dagli eventi la complessità di questo attacco naturalmente, e di capire anche come andare oltre. GR24 torna alle 20. GR24, il sole 24 ore, direttore Guido Gentili. Sono arrivate le nuove norme sullo smart working. È il momento giusto per affidarti a chi ha esperienza. Lo smart working fa bene ai tuoi dipendenti e fa bene ai conti della tua azienda. Migliora il tuo business, ti fa risparmiare e aumenta la produttività. Variazioni, da oltre 10 anni, aiuta le imprese a costruire uno smart working su misura, con soluzioni chiavi in mano. Scopri tutti i dettagli su variazioni.info. Work smart. Live better. È tornata Giovanna? Sì, certo, sta verniciando il cancello col Fernovus. Fernovus Saratoga. Vernicia direttamente sulla ruggine nel colore che vuoi e non cola. Brava Giovanna, brava! Fernovus Saratoga, lo smalto antiruggine. Visto che brava? La tua vita cambia. La rata resta sempre la stessa con Mutuo Tasso Fisso Promo. Scegli la sicurezza del tasso fisso e la serenità di un esperto a tua disposizione. Scopri di più nelle filiali del gruppo Banco BPM o su mutuopromo.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori in filiale su bancobpm.it e su mutuopromo.it. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione della banca. Scade il 16 giugno 2017. La vita è una questione di trainer. La porta chiusa in faccia al momento giusto? Trainer. Il pubblico che ti applaude? Trainer. L'amico che dice sempre quello che pensa? La pacca sulla spalla che non ti aspettavi? Trainer. Il socio che ha creduto in te? Trainer. Oggi, con il personal trainer dell'energia, alleni ogni giorno all'efficienza la tua azienda. Repower, l'energia che ti serve. Accendi la tua libertà, metti in moto il tuo camper, parti con Plein Air, la rivista che dà un volto nuovo alla tua vacanza. Borghi, itinerari, eventi. Con Plein Air ogni viaggio in camper è un'avventura indimenticabile. Chiedi Plein Air in edicola. Strade in diretta. Buonasera a voi tutti. Oltre al traffico molto congestionato su tutte le autostrade del territorio nazionale per questa giornata che segna la fine del ponte del 2 giugno, segnalo al nord code per incidente tra Piacenza Sud e Piacenza Nord verso Milano, in centro Italia code per incidente sull'Auto Sole tra Ferentina e Colleferro verso Roma e code per incidente anche tra la diramazione Roma Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Ancora nel Lazio per incidente code sulla A91 autostrada per l'aeroporto di Fiumicino nei pressi dell'allacciamento con il grande raccordo di Roma in direzione Eur. Al sud code per incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Cosenza e Rogliano Grimaldi verso Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Per progettare un'auto è necessario avere un principio che indichi la strada da seguire. Per Volvo il principio che guida ogni progetto non è un'idea, ma sono le persone che viaggiano a bordo delle sue auto. Ecco perché Volvo V40 ha di serie le più avanzate tecnologie di sicurezza. Il Volvo City Safety, che fino a 50 km orari evita i tamponamenti. E l'esclusivo airbag esterno a protezione del pedone. Volvo V40 è pensata per muoversi in totale sicurezza in città. E in più offre il massimo comfort in ogni viaggio, perché ha di serie l'ergonomia unica dei sedili Volvo, il cruise control, il computer di bordo e molto altro ancora. Volvo V40, progettata pensando a chi la guida. Gli speciali di Radio 24. Le 19:16 minuti, una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio. Non sono sola, c'è accanto a me Cristina Carpinelli. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Vi racconteremo questo ennesimo episodio di paura che ha colpito la città di Londra, un episodio che abbiamo vissuto peraltro, Cristina, ieri proprio in diretta. In presa diretta, direi, quasi contestualmente a quanto accadeva a Torino, quindi si faceva fatica anche a leggere i due avvenimenti inizialmente, abbiamo fatto fatica anche noi a capire cosa stesse succedendo, anche se poi via via è bastato poco per capire che la dinamica, seppur semplice, ricordava altri attacchi avvenuti sempre a Londra e quindi questo pulmino lanciato a grande velocità sulla folla. Era un sabato sera molto caldo, quindi molte persone in giro e molte insomma, anche a vedere la partita, tra l'altro insomma i due avvenimenti erano in qualche modo, c'era un legame che collegava le due notizie in qualche modo, è vero, sì, anche questo è vero. Cristina, noi approfondiremo, insomma, per quel che possiamo approfondire in questo momento, è passato ancora poco tempo. Ringraziamo in redazione Claudia Schiattone, Pietro Lacorte in regia ed il coordinamento di Gigi Donelli per questo speciale che vi accompagnerà sino alle 20 con degli ospiti ovviamente da Londra. Cristina, la situazione al momento, diciamo il bilancio che è definitivo al netto delle condizioni dei feriti, alcuni critici, che è di 7 morti, ne è stato identificato uno straniero, un canadese, ci sono 36 feriti ancora ricoverati in ospedale, 21 in condizioni critiche, ed è durato tutto pochissimo. 8 minuti di orrore, di terrore, perché poi via via stanno arrivando anche i particolari, per cui non c'è stato solo l'atto meccanico di andare addosso col pulmino, ma poi anche tutta la coda, diciamo, di attacco sanguinoso con coltelli. Questa volta, tra l'altro, è come se fosse cresciuta in qualche modo la violenza, no? C'è una sorta di escalation, stiamo vedendo via via di attentato in attentato, cioè prima una sola persona, adesso proprio una sorta di squadra organizzata che attacca. Anche questo è un dato che va sottolineato in questi 8 minuti che appunto seminano l'orrore, perché sono 7 morti, ma dicevi tu 36 feriti, ma 21 sono veramente in condizioni critiche. Tra l'altro la Gran Bretagna sta ancora cercando di superare lo shock dell'altro attentato di Manchester del 22 maggio, ci sono ancora dei ragazzini ricoverati in ospedale, quindi sono tanti piani che stiamo cercando di raccontarvi. E Cristina, è un paese al voto. Ed è un paese al voto, tant'è che oggi appunto si è discusso anche di questo, se sospendere o meno o posticipare il voto. La soluzione è stata quella di andare avanti, poi sentiremo anche il discorso di Theresa May, un discorso molto forte, quindi l'idea è quella di non fermarsi, non arrestarsi, non cambiare assolutamente. Ascoltiamola. We cannot and must not pretend Ecco, Theresa May cosa dice? Dice: noi non possiamo continuare ad accettare che questa sia una sorta di normalità, non possiamo andare avanti in questo modo, le cose appunto non possono continuare così, devono cambiare, ora è troppo, anzi ha detto quando è troppo, quindi un discorso molto forte che ha puntato soprattutto a una sorta di combattimento, no? Lei ha parlato della, ha esortato il premier britannico a combattere il terrorismo, a combattere la sua ideologia, ha detto che è una perversione dell'Islam e che sfida i diritti umani, lo distruggeremo, ha detto Theresa May, solo se saremo in grado di far capire che i nostri valori sono superiori ai loro. In questo senso si incastra anche l'idea di non spostare quindi il voto, ma di fermare invece per questa giornata ovviamente la campagna elettorale. Quindi questo è quello che è stato fatto e devo dire che questo discorso di Theresa May è stato anche molto criticato da alcuni, perché appunto è stato un discorso a volte in alcuni passaggi quasi forte, ma senza una sorta di contenuto, diciamo così, di strategia. Però è anche vero, ne parlavamo anche noi, che è tecnicamente impossibile riuscire ad avere una guida rispetto a questo tema. Quando c'erano stati gli attentati a Manchester, ma anche oggi abbiamo letto, si parlava di circa 200.000 persone attenzionate dalla polizia, e quindi è veramente impossibile riuscire a controllare. Quindi Cristina, noi abbiamo un primo ospite da Londra e lo ringraziamo, in collegamento con noi Leonardo Maisano del Sole 24 Ore. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Leonardo, abbiamo sentito questo discorso di Theresa May in una campagna elettorale oramai agli sgoccioli. Oggi ricordavamo si è anche pensato di rinviare il voto, che invece è stato confermato. Tu dove ti trovavi ieri, Leonardo? Quando è successo? Io ero in tutt'altra zona di Londra, quindi non ho avuto modo di vivere da vicino gli episodi quando sono successi. Anche se vi ricordo, io sono corrispondente da Londra da diversi anni e per diversi anni l'ufficio di Londra è stato, per molti anni l'ufficio di Londra è stato proprio sul London Bridge, negli uffici del Financial Times, quindi quello che è accaduto ieri è accaduto molto vicino a quella che è stata la storica sede, diciamo, del Sole a Londra. Una città, Leonardo, che non si era ancora ripresa, dicevamo, dall'attacco al Westminster Bridge. No, non si era, si era ripresa, perché Londra si riprende sempre, come tutta la Gran Bretagna, ha una capacità di rimbalzare, diciamo, di fronte a queste situazioni. Si era visto a Manchester, si è rivisto a Londra ieri, e c'è una capacità comunque di andare avanti che Londra mette sempre in scena. Quindi la ripresa rispetto a Manchester e rispetto a Westminster prima c'era stata, cioè questa è una città che va sempre avanti, non si ferma, come dire, piangendosi più o meno addosso, ma è molto attenta a dare solidarietà, attenzione, a condividere, come dire, il momento di crisi insieme. Ecco, queste parole così forti della May, cosa cambiano adesso negli scenari anche politici? Cambiano diverse cose, perché è inevitabile che parole del genere, che arrivano due giorni prima delle elezioni con un primo ministro in una posizione debole, come, cioè forte in assoluto ma molto debole relativamente alle aspettative, perché non dimentichiamoci che Theresa May aveva un consenso che aveva circa 20-25 punti di vantaggio sul Labour un mese e mezzo fa, e adesso è ridotta tra i 3 e i 6 punti, più generosi danno 9 punti. Resta la favorita per vincere le elezioni, ma è chiaro che un discorso del genere, come dire, l'aiuta. Non sto dicendo che lo abbia fatto con quell'obiettivo, però inevitabilmente l'aiuta, perché è percepita, il Partito Conservatore storicamente è percepito come il partito più abile nel gestire le crisi, siano esse le crisi acute, siano esse crisi economiche o crisi di altra natura come queste, primo. E in secondo luogo perché lei è stata ministro degli interni e quindi, come dire, ha avuto un'esperienza sul campo. Detto questo, io sono convinto che da parte sua ci fosse assoluta e genuina volontà di cambiare le regole del gioco. Regole del gioco che in Gran Bretagna sono state al centro di un grande dibattito, perché inevitabilmente questa città è sempre stata, come dire, molto tollerante, è stato l'esempio del multiculturalismo. Non dico che siamo alla fine di questo, che è un dibattito infinito tra multiculturalismo e modello invece più di assimilazione come quello francese, non dico che siamo alla fine di questo modello, ma certamente se si va verso una stretta come quella che Theresa May ha lasciato capire intenderà prendere, se sarà di nuovo Primo Ministro dopo le elezioni, il quadro sociopolitico del paese potrebbe cambiare. Senti, abbiamo visto ieri gli appelli restate vigili, quindi tu giustamente dicevi Londra è una città che sa reagire, però anche il restare vigili e il continuare a restare vigili non ti fa vivere in una situazione di serenità. No, però c'è sempre, no, certo, però c'è sempre l'essere vigili è una cosa, e voglio dire, rinunciare alla propria routine, alle proprie abitudini è un'altra. Finora non hanno detto e non diranno mai, credo, non andate a lavorare, non pigliate i mezzi pubblici, eccetera, no? Quindi questa volontà di continuare sulla propria strada, senza essere, come dire, interrotti nell'esistenza quotidiana da fenomeni perversi, di terrorismo, di violenza, è una volontà che è presentissima nella città. Quindi non vi aspettate accompagnata da un livello di attenzione, di guardia che è inevitabile, ma questo dovremmo averlo tutti nel mondo, come dire, in Europa e anche fuori dall'Europa, nel mondo che può sentirsi più minacciato da forme di estremismo di questa natura. Bisogna abituarsi ad essere più attenti. Attenti, ma non militarizzare forse le città, no? Anzi, no, certo. Addirittura molto interessante anche quello che la polizia ha detto ai cittadini, no? Corri, nasconditi, avverti, quindi una sorta di decalogo per essere da una parte capace di mettersi al riparo e dall'altra di contrastare, quindi anche questo è interessante, no? come questo, esortazione. Sì, esatto, questi tre punti sono proprio tre punti, cioè proprio, come dire, i tre comandamenti da seguire nel momento in cui succede qualcosa, quindi sappiate che non dovete cercare di affrontare, esatto, o di negoziare o di trattare con persone con i terroristi, dovete cercare di scappare, nascondervi, avvertire la polizia quando appena potete in sicurezza. Tant'è vero che dicono spegnete subito i cellulari e per evitare che suonino se siete nascosti. Quindi, come dire, c'è un'indicazione proprio pratica su le mosse da fare in caso di un attacco che può avvenire francamente in qualsiasi momento, perché una cosa non è ovunque oramai in qualsiasi non momento secondaria, certo, di quello che ha detto la May è che non c'è soltanto l'emulazione del web, non c'è soltanto la diffusione attraverso il web, ma c'è anche questo desiderio in qualche modo di emulazione che nasce da questi episodi, no? Westminster, non è un caso che la dinamica di Westminster sia molto simile a quella di ieri. Su London Bridge. Grazie a Leonardo Maisano del Sole 24 Ore. La paura l'abbiamo vista anche Cristina ieri, lo dicevamo, a Torino, e a Roma si corre ai ripari con una riunione al Viminale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Buonasera Teresa Trillò, buonasera Teresa. Buonasera a voi. Sì, esattamente così, la riunione del Comitato Antiterrorismo è in corso, è iniziata intorno alle 18, dopo l'attentato di Londra, infatti il Ministro dell'Interno ha ritenuto opportuno convocare la riunione straordinaria con i vertici della Polizia e dei servizi di intelligence per fare il punto sulla situazione e verificare anche le misure di sicurezza già in atto nel nostro Paese. Misure che potrebbero essere anche rafforzate in vista di molti appuntamenti estivi, come ad esempio concerti, feste, raduni. Ricordiamo però che la vigilanza qui in Italia è già alta, molto alta, in molti luoghi solitamente affollati come stazioni metropolitane, centri turistici. E a Roma, ad esempio, il Colosseo e i fori imperiali ci sono dei checkpoint di controllo, oppure a Piazza San Pietro solitamente è blindata in occasione delle udienze papali o per l'Angelus della Domenica. Per il momento da Roma è tutto, perché siamo appunto in attesa che il Comitato Antiterrorismo si concluda, termini per sapere cosa ha deciso. Grazie a Teresa Trillò. Cristina, ci fermiamo. A questo punto ci dobbiamo fermare, torniamo tra pochissimo. Lo scorso anno oltre 190.000 contribuenti hanno scelto di dare il proprio sostegno alla ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Con il tuo semplice gesto potremo raggiungere importantissimi traguardi nella ricerca, nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Nella dichiarazione dei redditi, devolvi il 5 per 1000 a favore dell'AIL. Riporta nell'apposito spazio il codice fiscale AIL 80 10 239 0582. Info www.ail.it. Scopri l'ultima obbligazione della Banca Mondiale in dollari statunitensi. Cedola fissa del 2,25%, scadenza 10 anni, callable a partire dal quinto. Rating AAA, fiscalità al 12,5% e non soggette al bail-in. Acquistabili sul MOT di Borsa Italiana. Info all'800-93-93-53 o su obbligazionisostenibili.org. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Non costituisce consulenza d'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Prima dell'investimento leggere attentamente il prospetto e i rispettivi final terms. Finalmente in Italia un salone completo della logistica sostenibile. Green Logistics Expo è una fiera B2B con i leader dell'intermodalità ferroviaria e del trasporto merci, della logistica per l'industria e della portualità, dell'e-commerce e della governance urbana. Green Logistics Expo, Fiera di Padova, 7, 8, 9 marzo 2018. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Cerchi agenti di commercio o rappresentanti. Vai su agenti.it. Papapapapero. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Papapapapero. Sei pronto a vivere l'emozione di Jaguar F-Pace? Il primo SUV Jaguar ad alte prestazioni. Da oggi, con il nuovo motore Ingenium 2000 TD4 240 cavalli, ti darà performance ed efficienza che non ti aspetti. Ed è così terribilmente bella che è stata premiata come Work Car of the Year e Work Car Design of the Year. Non averla sarebbe un vero incubo. Jaguar F-Pace. Vieni a provarla in concessionaria. Vivi l'estate in libertà. Scegli di non avere vincoli. Di dire no ai costi nascosti, truccati, gonfiati. Scegli la nuova offerta Mobile Fastweb. Chiamate illimitate, 6 giga con la velocità del 4G, giga illimitati con Wi-Fi, tutto a 9,95€ ogni 4 settimane. Info su fastweb.it. Fastweb, un passo avanti. Gli speciali di Radio 24. Buonasera, ben ritrovati. Quello che sentite è il sindaco di Londra, Khan, ve lo facciamo sentire. Ecco, Khan dice: non faremo mai vincere queste persone, riferendosi appunto agli attentatori che hanno colpito Londra ieri sera. Ha aggiunto il sindaco di Londra: sono terroristi che vogliono distruggere il nostro modo di vivere attaccando la gente che esce il sabato sera. Ripartiamo da qui dunque in questo speciale che Radio 24 dedica all'attacco al cuore di Londra ieri, London Bridge, 7 morti oltre ai 3 terroristi, uno dei quali una persona riconosciuta come cittadino canadese, 36 feriti, 2 sono francesi ancora in ospedale, 21 sono in condizioni critiche, tra loro c'è anche un poliziotto. Siamo io e Annarita D'Ambrosio qui in diretta a raccontarvi ancora una volta purtroppo questa pagina di storia contemporanea che continua giorno dopo giorno ad arricchirsi appunto di particolari che forse non vorremmo neanche più stare a raccontarvi, Annarita. Davvero non vorremmo più stare a raccontare. Tra poco però torneremo a collegarci, Cristina, con questa Londra che cerca, come ci ha raccontato Leonardo Maisano del Sole 24 Ore, di ritornare alla normalità e riesce a farlo sempre in breve tempo. Però penso che la popolazione sia anche un po' stanca, forse. Ce lo facciamo raccontare dai nostri prossimi ospiti il clima che si vive dopo la serata di ieri. Perché dopo il pulmino, l'attacco del pulmino, a me un'altra cosa che ha colpito molto è stato questo, che un tassista che si trovava a London Bridge, quando ha visto il pulmino andare sui passanti, ha subito capito che si trattava della copia, della fotocopia dell'attentato Westminster, e con un passeggero a bordo ha fatto inversione di marcia e ha cercato di investire i 3 individui terroristi all'interno del pulmino che erano scesi con i coltelli e che hanno poi ucciso. Ha cercato di investirli, ma poi ha visto la polizia, poi c'è stato il conflitto a fuoco e in poco, in 8 minuti, come abbiamo raccontato prima, la vicenda si è risolta purtroppo con questo bilancio così pesante. E sono tante le storie dei singoli che in qualche modo hanno dato in questo frangente il loro contributo. Abbiamo visto anche chi è riuscito a testimoniare con delle foto, chi appunto, come dicevi, il tassista, e poi ci sono i giornalisti. Giorgia Scaturro, raccontaci un po' com'è stata la serata di ieri. È stato un crescendo di orrore quando arrivavano notizie di sparatorie, camion impazziti sulla folla, con alle spalle il caso precedente del ponte di Westminster. Poi dall'altro lato arrivavano voci di accoltellamenti, quindi per un certo punto il tutto durava 8 minuti, che appunto nell'atmosfera locale sono dati 80 minuti, se non 8 ore. Quindi questo questo attentato è intervenuto in un momento in cui a Londra si respira pericolo e si vive pericolo, come i casi. Giorgia, sono partite ovviamente adesso le operazioni di polizia un po' dappertutto. Sul fronte delle indagini, che cosa si sa di più, anche se le ore passate sono ancora poche? In realtà no, le indagini si sono subito accelerate, sono partite a passo spedito già dalle prime ore di questa mattina. Alle 7 c'è già stato il primo raid a Barking, nella zona est della capitale britannica, nell'abitazione presunta di uno dei terroristi che sono stati freddati dalla polizia sul luogo dell'assalto. Di lui i vicini hanno detto che è sposato, padre di 2 bambini e probabilmente era stato allontanato dalla moschea locale per conflitti di vedute con l'imam. Qui a Barking la polizia ha arrestato 12 persone, fra cui 4 donne anche, che sono tuttora in custodia dalla polizia. Nel pomeriggio però, e proprio nelle ultime ore, poco più in là, sempre ad est della capitale, a East Ham, è stato condotto un altro raid delle forze di polizia armate pesantemente. In questa massiccia operazione sarebbero, sempre secondo i testimoni, ancora la polizia non ha confermato, sarebbero state arrestate 2 persone connesse agli attentati di ieri sera. Ecco Giorgia, ed è tra l'altro in questo clima spaventoso, come dicevi tu, quindi una Londra che si è svegliata e ha ancora molta paura, anche perché vede ripetersi, appunto, come in un film, dinamiche molto simili tra loro. È in questo clima che a Manchester stanno entrando i ragazzini all'interno di questo Old Trafford, questo stadio di cricket. Perché? Perché si è deciso di rispondere al terrorismo con la musica, e quindi stasera alle 19:55, tra misure di sicurezza incredibili in una città praticamente blindata, Ariana Grande canterà insieme a tantissimi altri nomi della musica amati dai ragazzini, canterà appunto in risposta all'attacco che ci fu a Manchester il 22 maggio scorso. 19:55 si aprirà questo concerto. Oltre a Ariana Grande ci saranno Justin Bieber, Katy Perry, i Coldplay e altri ancora. Quindi questo invece come viene vissuto a Londra, insomma, questo momento? Questo è il più grande contributo al motto che ci si ripete ormai dal 2005, keep calm and carry on, andiamo avanti nonostante tutto. Si parla di ragazzini che già dalle 8:30 di questa mattina sono in fila per entrare all'arena. In queste ore ci si sarà domandato, ovviamente qualcuno, persone sono state anche intervistate nelle televisioni locali, ammettono la paura. Ammettono anche l'incubo che viene rivissuto, perché tutto è stato ovviamente mandato in televisione, tutti a Manchester comunque conoscevano tutti, e quindi stanno rivivendo questo incubo, ma dicendo al mondo: noi andiamo avanti, non ci facciamo fermare. Ed è un po' lo spirito che, come ripeto, dal 2005 gli attentati sotto la metropolitana, si cerca di ristabilire in tutto il Regno Unito, dove, ricordiamolo, soltanto negli ultimi 3 mesi sono stati 3 attentati terroristici, sì, questo è un altro 5 dato complotti importante. Che sono stati sventati, 500 complotti che sarebbero attivi mentre vi parlo. In questo momento il comando antiterrorismo sta proprio investigando su questo. Quindi diciamo che È difficile andare avanti, ma in qualche modo ci sono queste prove incoraggianti per l'intera nazione e per il mondo, perché non è soltanto qui, dal 2015, questo è il quindicesimo attentato che avviene in Europa. È un tributo infatti che non riguarda solo le città nelle quali purtroppo si verificano questi avvenimenti. Grazie da Londra alla nostra Giorgia Scaturro, ma noi a Londra restiamo con, e lo ringraziamo, Filippo Baglini, che è un altro collega giornalista italiano che ha fondato London One Radio, la prima radio italiana indipendente della capitale britannica. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti, grazie. Filippo, parlavamo del fatto che purtroppo ogni attentato terroristico non riguarda poi solo il paese nel quale si verifica. Abbiamo detto 7 vittime, un canadese, adesso si è saputo che tra le vittime c'è anche un francese. Gli italiani pare non ci fossero, ma insomma poco conta, nel senso che ci sono italiani o non ci sono, ci sono 7 persone morte. È un tributo e un attentato che non è solo a Londra, ma che riguarda l'Europa intera e non solo, perché è coinvolta anche il Canada. Filippo, lo dicevamo prima quando ci siamo sentiti al telefono, Londra sa rialzarsi, lo abbiamo detto, però è anche un po' stanca. Tu sei stato stamattina sul luogo dell'attentato. Sì, io... Esatto, alle 7 ero già sul luogo dell'attentato, ho iniziato a fare il servizio giornalistico raccogliendo delle testimonianze di persone che dai pub vicino la zona sono usciti di corsa andando nelle strade e all'inizio non capendo che cosa era successo. Una Londra che ovviamente si sta riprendendo, la vita continua, però più stanca sicuramente del primo attentato, perché non se ne può più. E questo lo sottolinea anche Theresa May, l'ha sottolineato nel suo discorso con quelle due parole: ora basta, è l'ora di finirla con questo terrorismo, che non si può andare nelle strade, non si può girare per la città, una delle città più belle al mondo, con la paura di non tornare a casa. Filippo, una città nelle quali però i turisti ci sono, cioè non è che l'attentato... Assolutamente, cioè ce n'erano tanti, ce ne sono tanti. Esatto, infatti stamattina c'erano tanti turisti italiani, ho incontrato una famiglia con due bambini che si faceva la foto proprio sul Tower Bridge, che è il ponte parallelo al London Bridge. Ho chiesto che cosa ne pensavano, ovviamente loro ne sapevano poco perché si erano appena alzati, non avevano ben chiaro, però avevano capito dell'attentato e alla fine mi hanno detto comunque noi si continua la nostra vacanza, perché abbiamo fiducia in questo paese. Poi ogni città poi non può essere sicura, poteva succedere a Milano, Roma o di nuovo a Parigi, questo mi hanno detto. Un ragazzo inglese invece con le lacrime agli occhi ha depositato un mazzo di fiori, un po' un simbolo appunto per essere vicino alle vittime, mi ha detto non si può più essere sicuri, ogni macchina di Londra può essere un proiettile pronto ad esplodere o essere appunto la fonte sorgente di un atto terroristico. Quindi e poi Filippo, scusa se ti interrompo, ma la cosa che colpisce sempre è che gli ultimi attacchi arrivano proprio nei momenti in cui le persone si svagano, no? Cioè, quindi colpisce proprio quella leggerezza della città, esatto, non colpisce il cuore. No, colpisce proprio la leggerezza. Ieri però, tra l'altro, come sai, c'era la partita Juventus Real Madrid, quindi c'erano tantissimi pub pieni, soprattutto quelli del centro, quindi le persone erano per strada, come è tipico bere qui in mezzo alla strada ogni sabato, ogni venerdì, e questo è lo scenario di Londra, vogliono colpire proprio in questa direzione. Filippo, Londra molti la conoscono, però la zona di Borough Market è proprio una zona di locali? Assolutamente sì, la zona di Borough Market si trova nei pressi dello Shard, no? Il grattacielo di Renzo Piano, c'è il Borough Market che tutti noi, ma dai turisti, tutto il mondo passa dal Borough Market per assaggiare le tipiche gusti di tutto il mondo, dal portoghese al francese anche all'italiano, quindi una zona ovviamente tempestate da turisti, e ieri sera in quella zona ci sono moltissimi locali, pizzerie, pub, ci sono alberghi. E tra l'altro, a proposito di alberghi, stamattina proprio dove ero nella postazione giornalistica dove ero io, proprio dietro al Borough Market, molte persone uscivano da alberghi vicini con le valigie e se ne andavano, chi magari rientrava dalla vacanza oppure cambiava hotel. Quindi una Londra che sicuramente, quello che mi ha stupito stamani, il silenzio che c'era anche nelle strade e l'apparente tranquillità, ma sicuramente una Londra veramente stanca. Questo anche perché te lo posso assicurare. La cosa che impressiona sempre è il giorno dopo, no? Quando si pulisce proprio la strada, si pulisce la strada dal sangue delle vittime, quando la città realizza veramente in maniera razionale quello che è successo, è questo quello che resta poi, no? A chi vive lì. Cioè, secondo me, più che non il momento di adrenalina di quegli 8 minuti, è il ragionare poi, no? Lo scoprire i dettagli anche dell'assalto, la cattiveria con cui ci si è scagliati addosso. Ci sono tante storie che stanno emergendo e che fanno veramente impressione, quindi anche questo in qualche modo sarà poi adesso da rielaborare e da cercare di risolvere anche in atti pratici, perché poi ci sarà anche una messa in sicurezza diversa a questo punto della città. Teresa May stamattina alle 9 ha riunito appunto il Consiglio di Sicurezza di massima allerta, e quindi ci saranno anche delle misure. Delle misure molto alte della sicurezza. Una cosa però in stile inglese, che per esempio stamattina prendendo la metro per avvicinarmi al Borough Market, poi ho dovuto farlo ovviamente in più un chilometro a piedi perché era tutto bloccato, all'autoparlante la voce diceva: la stazione di London Bridge è chiusa per motivi di lavoro di ingegneri. Quindi non ha detto è chiusa per terrorismo, è chiusa per lavoro. Ovviamente questo è un modo anche molto per British, non, certo, molto per evitare. British per evitare panico e tante altre cose. Una Londra che ripartirà, però, ripeto, molto stanca, e quindi speriamo che gli scenari possano essere totalmente diversi e troviamo veramente, cioè si trovino una soluzione. Perché veramente siamo un po' stanchi, come in tutti i paesi del mondo. Grazie a voi. Grazie a Filippo Baglini da Londra per essere stato con noi. Cristina, noi ci aggiorniamo su Strade e Autostrade e poi torniamo. Strade in diretta. Buonasera a voi tutti. Sulla A24 Roma-Teramo code per la presenza di un veicolo in avaria tra Colle d'Ara e Assergi in direzione Roma, code per incidente traffico sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna. In zona sulla statale 309 Romea chiuso per incidente il tratto tra Marina Romea e Casal Borsetti in entrambe le direzioni. Torniamo in Centro Italia, code per incidente sull'Autosole tra Ferentina e Colleferro verso Roma, e per un altro incidente code tra la diramazione Roma Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Ancora nel Lazio per incidente code sulla A91 autostrada per l'aeroporto di Fiumicino nei pressi dell'allacciamento con il grande raccordo anulare di Roma verso l'Eur. Per il resto traffico ancora molto intenso per il rientro dalle località turistiche del territorio nazionale. Potete però visualizzare la situazione nel dettaglio sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, la sezione traffico. Strade in diretta torna tra un'ora. Promo 24. Per i possessori di partita IVA che cercano il massimo comfort di guida, la risposta è la nuova Seat Leon con le sue versioni business. Tecnologia e sicurezza sono al top della categoria, grazie al cruise control adattivo, ai sensori di parcheggio, al sistema di navigazione con schermo da 8 pollici, al Seat Full Link con connectivity box e i fari full LED. Nuova Seat Leon Business include motorizzazioni turbo diesel o metano, trazione integrale 4Drive, cambio manuale o automatico DSG. La versione turbo diesel è disponibile da €159 al mese, TAN 4,50 TAEG 6,03, con manutenzione ordinaria e 75.000 km inclusi. E con Seat senza pensieri, dopo 3 anni si può decidere se tenerla, cambiarla o restituirla. Per info 800 100 300 o seatforbusiness.it. Gli speciali di Radio 24. Le 19.48, ancora una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio e da Cristina Carpinelli in conduzione di questo speciale per cercare di approfondire i tanti aspetti emersi dal purtroppo nuovo attentato che si è verificato ieri sera a Londra, un attentato con delle modalità purtroppo già viste, 7 le vittime, lo dicevamo, un canadese ed un francese, si è saputo questa sera, non tutte peraltro identificate, 36 feriti ricoverati in ospedale, 21 in condizioni critiche. Grazie a Claudia Schiattone in redazione che è con noi insieme in regia a Pietro Lacorte, questo speciale è stato coordinato da Gigi Donelli. Insieme ancora per circa un quarto d'ora, Cristina, per continuare ad approfondire degli aspetti. E quello che approfondiamo adesso con l'ospite che presento è particolarmente interessante perché riguarda tutti noi, riguarda questo clima di tensione costante in cui questi attentati purtroppo inevitabilmente ci pongono. Ringrazio Carlo Biffani, fondatore del Security Consulting Group, esperto di sicurezza. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, noi stiamo parlando proprio di questo, della tensione che ognuno di noi vive, anche la sottoscritta che per esempio viene e lavora in metropolitana e prende la metropolitana a qualunque ora del giorno e anche della notte. Questi attentati, Biffani, hanno purtroppo su di noi proprio questa sensazione, ci inculcano questa sensazione. Guardi, io sono stato una facilissima e ahimè sfortunatissima Cassandra da questo punto di vista quando una settimana prima del terribile attentato avvenuto a Manchester scrissi che quello che stava accadendo era che gli adolescenti e comunque i bambini, quelli che noi consideriamo in buona misura intoccabili, degli intoccabili, e quelli la cui incolumità consideriamo essere il nostro primato, è quello che ci distingue dagli animali, erano diventati dei target. Il caso ha voluto che la bomba fatta esplodere dal cittadino inglese davanti al teatro dove aveva appena cantato Ariana Grande mi abbia dato tremendamente ragione. Ma io dico questo semplicemente per un motivo, perché in quella circostanza mi riferivo al fatto che tutti i fatti che abbiamo visto accadere fra Bataclan e oggi sono degli accadimenti, come dire, di ripiego, perché l'idea che Daesh ha di martellarci non è quella di agire attraverso un diseredato ex galeotto spiantato e depresso che accoltella qualcuno alla fermata dell'autobus, ma è di portare dei commandos o comunque delle persone, degli operatori che siano in grado di portarci direttamente alla guerra in casa nostra, all'interno delle nostre città. E la guerra non si fa con i coltelli, la guerra si fa con più persone che agiscono di concerto, che quindi danno la sensazione che l'azione delle nostre forze di sicurezza non sia valsa ad individuare un gruppo che vuole attaccare il centro di una città, e si fa con strumenti sofisticati, che siano appunto le bombe, che siano appunto le armi d'assalto o comunque l'azione di più persone. Tutto il resto è un contorno che serve a tenere alto il volume della tensione, ma non è quello a cui tendono, ecco. Quindi Biffani, secondo lei questi che stiamo vivendo sono semplicemente dei segnali per creare appunto questo pensiero fisso attorno al tema della caducità, no? Cioè della possibilità di essere attaccati in qualsiasi momento, ma di fatto insomma non stiamo parlando di qualcosa di strutturato, è qualcosa di sfilacciato, questo sta dicendo? Sì, esatto. La loro grossa valenza in termini di performance, in termini di capacità, è stata quella di poter continuare a colpire malgrado i sistemi di sicurezza dei paesi occidentali cercassero i segnali di una serie di comportamenti che portassero poi all'azione di gruppi appunto strutturati, di cellule che erano in comunicazione con qualcuno che fosse nei territori che tutti conosciamo, ma che al tempo stesso fosse in grado di coordinarli e muoverli e dislocarli qua. In questo senso l'azione di, ripeto, un lupo solitario, che poi bisognerebbe capire bene e definire bene questo concetto, ma insomma il lupo di suo non è mai solitario, dice sempre in branco, e azioni di questo tipo servono a tenere alto il tono di reazione nostra, no? L'ipersensibilità rispetto al tema, ma quello a cui guardano loro è la capacità appunto di far agire poi anche, si è detto tra mille virgolette, soltanto con un furgone dei coltelli tre persone, perché tre persone poi implicano il fatto che si immagini un team, si immagini un coordinamento, si immagini una capacità, ma anche l'attenzione che c'è, di continuare a pianificare e a muoversi colpendo in maniera appunto strutturata, coordinata, malgrado tutto quello che facciamo per scongiurare che questo accada. Grazie a Carlo Biffani, fondatore del Security Consulting Group, per essere stato con noi. C'è un'analisi particolare con la quale vogliamo chiudere, e quella di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, la tua analisi è molto interessante, l'abbiamo letta sul Sole 24 Ore. Le strategie sbagliate dell'Occidente forse all'origine di questo clima di paura del quale stiamo parlando. Sapete, ogni volta che qui accade un atto terroristico, che peraltro avviene in qualunque modo, perché ricordo che il portavoce dell'ISIS un paio d'anni fa disse: usate anche i coltelli, le vostre automobili, per colpire, quindi non è detto che debbano essere sempre coordinati o ad avere, come dire, azioni belliche di stampo classico. Il terrorismo avviene con qualunque mezzo. Tra l'altro Salman Abedi, l'attentatore di Manchester, ha agito con una cintura spaventosa che ha fatto decine di morti, questo per aprire una piccola parentesi. Ma per continuare con questa analisi, qui si sente il solito ritornello che i terroristi non devono cambiare le nostre vite, come se noi non fossimo mai stati in Medio Oriente, come se non avessimo contribuito alla frantumazione di quella regione con decenni di guerre, come se non avessimo cambiato violentemente le vite degli altri con l'invasione americana dell'Iraq, la guerra in Libia, come vivessimo sulla nuvola, lontano da conflitti remoti che peraltro in Siria abbiamo alimentato usando gli stessi jihadisti, come se non sostenessimo proprio quelle merottie petrolifere che ci pagano con suntuose commesse per appoggiare i loro regimi. Sono le nostre colpe, Alberto, che tornano. Sono le nostre colpe, sono anche il bersaglio sbagliato, perché poi ogni volta che si parla di uno stato terroristico viene rispolverato l'Iran, cioè l'alleato di Assad, cioè di quelli che stanno combattendo proprio quei jihadisti in Siria e in Iraq. Ora, o noi cambiamo i nostri alleati, o noi cambiamo il nostro modo di vedere le cose, o finiremo sempre, come dire, in una serie di contraddizioni in cui difficilmente usciremo. C'è anche un altro dato, Alberto, che viene rispolverato ogni volta, ed è il fatto che l'ISIS si ritrova con le spalle al muro e che quindi potrebbe in questo senso alzare il tiro, fare questi piccoli dare questi piccoli segnali per appunto dimostrare che è ancora vivo. Ma intanto aspettiamo la rivendicazione, perché qui le rivendicazioni molto spesso sono state affrettate. Voglio solo ricordare che l'attentato di mercoledì scorso a Kabul con 90 morti si è detto che è stato rivendicato dall'ISIS, ma non è affatto vero. Quindi aspettiamo un attimo. Dobbiamo aspettare, certo. Aspettiamo un attimo le rivendicazioni. Sul fatto che l'ISIS sia con le spalle al muro sono d'accordissimo con te. Sono due mesi che sono a 300 metri dalla moschea in cui al-Baghdadi ha proclamato il califato nel 2014, quindi a questo punto è chiaro che assedio a Mosul, assedio a Raqqa, il califato ha perso il 40-50% del proprio territorio e 4 milioni di persone che stavano sotto il suo predominio, no? È chiaro che sono con le spalle al muro, ma ci dobbiamo chiedere se davvero vogliono fare la guerra al califato. Il sospetto non è che non lo stiano facendo la guerra al califato, ma che stiano facendo una guerra in realtà, come hanno dichiarato gli americani, gli inglesi e i giordani, certo, per Alberto, tagliare il corridoio iraniano che porta i rifornimenti a Damasco e agli Hezbollah libanesi. Grazie. Alberto, noi ti ringraziamo, purtroppo ti dobbiamo sfumare perché il nostro speciale, Cristina, termina qui. Grazie. Termina, volevo dire soltanto con una dedica: si apre il concerto a Manchester, You Never Walk Alone, non camminerai mai da solo. Questo è quello che stanno dicendo i musicisti a coloro che sono andati ad ascoltare il concerto. Grazie. È così che un meccanico saluta il suo cliente. Ok, amico, a presto. È così che Francesco, un meccanico che raccomanda sempre il suo Supreme Diesel, saluta i suoi clienti. Addio, addio, abbi cura di te. Questo perché esso Supreme Diesel, usato regolarmente, contribuisce a pulire il motore e a mantenerlo in ottime condizioni. Così Francesco per un po' non parlerà più di calcio con Piero. Francesco, andrà tutto bene. Scopri di più su esso.com. Ho sentito parlare di fatturazione elettronica. Mi dicevo, non mi riguarda. Poi ho sentito che posso velocizzare l'invio delle fatture, ridurre al minimo le attività manuali e avere rimborsi IVA più veloci. E posso risparmiare tra i 7,5 e gli 11,5 euro a fattura. Adesso ho capito che la fatturazione elettronica conviene davvero alla mia azienda. Fatturazione elettronica Zucchetti. Ti rendiamo semplice l'attività. Scopri di più su fatturaelettronica.zucchetti.it. Zucchetti, il software che crea successo. Bene, abbiamo analizzato il suo curriculum. Passato emozionante, grandi performance e ha superato addirittura 160 test di qualità. Ottimo! Con noi farà ancora molta strada. Alfa Romeo Selected for You seleziona il meglio per darti il meglio. 160 controlli superati, garanzia fino a 36 mesi, assistenza stradale e veicolo sostitutivo. C'è un'auto appartenuta a chi di emozioni se ne intende, come te. Scegli l'usato Alfa Romeo Selected for You. Info e condizioni su alfaromeo.it. Dal 5 al 12 giugno il Cuore Verde della Terra batte a Bologna. Oltre 70 eventi in programma con All for the Green. Cultura, musica, scienza a cornice del G7 Ambiente per un mondo più sostenibile e più equo. Minambiente.it. Se fate scorrere l'acqua della vasca e il vostro gatto vi chiede il bagno schiuma, il bagno è sicuramente Iperceramica. Scoprite le offerte sull'arredo bagno. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau. Ciao, tutto quasi bene, grazie. Senti, per stasera quasi tutto confermato. Ho prenotato in un posto quasi buono. Sì, c'è anche il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere Nissan Qashqai? Il momento è ora. Solo a giugno, fino a 5.